E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Summertime di Elisabetta Fiorito. Il piccolo Buddha, la storia del principe Siddhartha. Ok. Il Buddha nacque 2500 anni or sono in un piccolo regno dell'antica India. Secondo l'usanza di quei tempi, sua madre, la regina Maya, faceva ritorno alla casa paterna per darvi alla luce il suo bambino. Era un viaggio lungo e faticoso per la regina, e così, a metà strada, la carovana reale si fermò per riposarsi ai margini di una grande foresta. Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Summertime, benvenuti a questa nuova settimana insieme, e abbiamo sentito dei brani tratti dal film di Bertolucci, Il piccolo Buddha. Perché? Perché la storia di Siddhartha, la storia di Shakyamuni, la storia del principe di Shakya ha sempre suscitato tantissimo interesse anche in Occidente, oltre che in Oriente, essere una vera e propria religione come il buddismo. E più precisamente questa sera si parlerà di Siddhartha, ma di un Siddhartha particolare, quello descritto da Hermann Hesse nel lontano 1922 e rappresentato questa sera al cortile del Palazzo Trecentesco Duchi di Santo Stefano, proprio da Enzo De Caro a Taormina. Buongiorno Enzo. Io spero che il vento di Sicilia che c'ho di sottofondo non sia un ostacolo alla nostra conversazione. No, anche perché poi Siddhartha, almeno quello di Hermann Hesse, è uno che si lascia andare a molti venti, no? È stato un po' il capolavoro della nostra adolescenza. A 15 anni si deve leggere Siddhartha. Sì, ma direi non solo della nostra, è proprio il capolavoro dell'adolescenza in generale. Credo che sia la sua quarta o quinta generazione di adolescenti, e guardandomi intorno mi sembra che è ancora perfetto per lo scopo che aveva, cioè far porre degli interrogativi sopra, ma poi insomma adolescenti non certamente in senso anagrafico, perché anche intorno ai 40 o ai 50 si vivono, e ne abbiamo intorno esempi illustri, si vivono delle adolescenze mica male, però ecco, è sempre il tempo, c'è sempre la possibilità di risvegliarsi a questi grandi interrogativi che Hermann Hesse, da proprio illuminato nella sua ispirazione, ha saputo formare in questo capolavoro. Ricordiamo che tu hai scelto di fare uno spettacolo anche musicale, al pianoforte ci sarà Silvia Cappellini, con musiche tra 800 e 900, che compositore avete scelto? Beh, in realtà i compositori sono stati ovviamente tutti dei compositori che hanno subito l'influenza di questo Oriente descritto da Hermann Hesse, questo Oriente che è un oriente meditativo, ma è un Oriente anche che ci fa fare le domande di sempre, e soprattutto la tesi di Hermann Hesse è quello che forse nell'adolescenza, anche come un momento storico dell'umanità, a un certo punto la vera guida non è più intorno o fuori, ma è dentro. E quindi abbiamo scelto tutti questi musicisti, da John Cage a Debussy a Satie, che hanno comunque nel loro percorso musicale compositivo subito una forte influenza dall'Oriente, per poi però ritornare da uomini occidentali e integrare quello che è anche insomma il mio pensiero per il futuro, che difficilmente tra qualche centinaio d'anni ci sarà ancora un uomo occidentale e un uomo orientale, almeno così mi piace pensare, ci sarà un uomo proprietario che abbia le caratteristiche migliori dell'Oriente e dell'Occidente. Sento che il vento a Taormina spira molto forte. Si sente questo vento siculo. Com'è l'atmosfera? Beh, parlo un po' con Eolo, vedo un po' se ci dà, se ma quello Eolo è un tipo così, non è uno dei nani, ma è proprio quello del re del vento. E poi gli fate Siddhartha e lui sarà pure un po' arrabbiato. Fa come gli fa. No, a lui partecipa, insomma è un modo per partecipare. Essendo un dio greco non è arrabbiato, no? Con questo... No, Oh, è un po' carattere, un po' ventoso. È un po' ventoso, anche la Sicilia. La Sicilia è la splendida Taormina. Allora, Enzo, stai con noi, perché invece dalla Sicilia noi passiamo alla libreria Fnac in via Torino a Milano, proprio in pieno centro a Milano, dove c'è Michele Marchetti, responsabile del reparto libri. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Michele, è vero che Siddhartha è un long seller? Che cosa vuol dire un long seller? Sì, Siddhartha è assolutamente un long seller. Tutt'oggi, come diceva il nostro attore, tutti gli adolescenti lo leggono a scuola, ma lo leggono anche gli adolescenti più grandi, perché effettivamente è un libro che va letto. Long seller è perché è un libro che si legge sempre, si vende sempre e costantemente rientra nei rifornimenti delle librerie. E questa è un po' la funzione dei titoli che devono essere considerati, diciamo, indispensabili. Ecco, io mi ricordo che ci sono pile di libri verdi, con la copertina verde, ricordiamo, no? Perché è edizione Adelphi. Sì, è azzurrina. Azzurrina, cioè che sì. Arrivano e appena si entra in libreria, in qualunque libreria, la Fnac, qualsiasi libreria in Italia, si trova comunque Siddhartha. Esatto. Siddhartha è il classico romanzo di formazione interiore per eccellenza, insomma, il romanzo di chi si pone delle domande e cerca di cercare delle risposte alla propria vita in maniera un pochettino più profonda, poco superficiale, e quindi è un romanzo che fa crescere in tutti i sensi, insomma. Ma quali sono gli altri long seller? Ma per quanto riguarda i long seller, stando sul genere, possiamo andare dal giovane Holden di Salinger, il vecchio Il mare di Hemingway, piuttosto che tanti altri, i ritratti di Dorian Gray, o tanti libri che insomma lasciano qualcosa dentro di noi, insomma, che ci aiutano a cercare delle risposte. Ma On the Road, sulla strada di Kerouac, vende, esatto, più di Siddhartha o vende di meno? Vende di meno? Ma diciamo che sono sullo stesso piano, magari non lo stesso piano di domanda, ma danno risposte differenti a chi vuole farsi delle domande, insomma. Diciamo che i long seller hanno sempre la vendita sicura, costante, si contrappongono un po' alle novità che escono e fanno il loro ciclo e lasciano poco, però in realtà sono romanzi che fanno la vita delle librerie, insomma. È vero che Siddhartha viene comprato soprattutto dai giovani, dai quindicenni, oppure ci sono anche i cinquantenni che riscoprono questo libro? Esatto. Diciamo che lo compra chi decide di farsi delle domande un po' diverse, perché fondamentalmente anzi oggi lo leggono perché magari gli è consigliato a scuola, oppure in qualche modo gli viene anche un po' imposto. Siddhartha, diciamo che è un libro che dovrebbe leggere chi decide appunto di voler crescere un po' di più dal punto di vista interiore, insomma. Ecco, e quindi deve essere insomma una scelta ponderata, diciamo, perché non va letto con superficialità, perché diciamo che lascia dei messaggi un po' celati, un po' no, che bisogna saper cogliere, insomma. Invece durante quest'estate quali sono gli hit, diciamo i short sellers, le vendite flash? Lo stesso editore, c'è questo Zia Mame di Patrick Dennis che sta attualmente spopolando in Adelphi, sì, con copertina rosa. Copertina rosa, esatto, che è un po' diciamo anche la contrapposizione a Siddhartha, nel senso che comunque si tratta sempre di diciamo un percorso di formazione di un ragazzino che viene affidato a questa zia, la quale ha una vita un po' particolare, molto divertente, molto ilare, ma molto superficiale, insomma, si contrappone un po' effettivamente a quello che abbiamo detto prima. E altri, diciamo, il libro dell'estate, il libro di quest'anno, sì. Altri libri, vabbè, il classico Stabat Mater. Ma andiamo sui classici di Camilleri, per rimanere nella Sicilia, con La danza del gabbiano, l'ultimo Montalbano uscito, alla trilogia di Larson, che adesso anche al cinema sta avendo particolarmente successo con Uomini che odiano le donne. Faletti, piuttosto che un altro giallo molto interessante che ha vinto quest'anno il premio Bancarella, che è Suggeritore di Carrisi, che sta sta avendo anche questo particolarmente riscontro, insomma. Ecco, chiedevo invece Stabat Mater, premio Strega, si vende o non si Stabat vende? Stabat Mater si vende anche lui, sì, è un Tiziano Scarpa, premio Strega di quest'anno, è una lettura un pochettino più impegnativa, non è diciamo la classica sotto lettura da sotto l'ombrellone, esatto, però i numeri li ha anche Stabat Mater. Ci siamo dimenticati un long seller da contrapporre anche a Siddhartha, che potrebbe essere il gabbiano Jonathan Livingston, è un altro masso. Esatto, date la brezza di cui parlava. Che visto che ci sta anche il gabbiano, il mare, il sole, e la maggior parte degli italiani è in vacanza. Allora, ringraziamo Michele Marchetti, responsabile del reparto libri della FNAC di Via Torino a Milano, in pieno centro, al lavoro lui, e ritorniamo in Sicilia. Ma prima di ritornare in Sicilia, sentiamo un po' che cosa ha rappresentato anche Siddhartha per la generazione che era giovane, che aveva 20 anni negli anni 80, negli anni dopo il 68, dopo magari anche il 77, dove c'era rimasto solo un cioè. Allora sentiamolo. Cioè, tutto è cominciato durante un aprile, no? Di circa 2 anni fa, no? Quando feci un viaggio in questa splendida regione, no? Quella toscana, no? Perché ero un sacco desideroso di conoscere città come Firenze, Siena, Pisa, Lucca, Monteriggioni. E tutta la Val di Chiana. Tutta la Val di Chiana, eccetera. E poi anche perché ero un sacco desideroso, no? Di conoscere i quadri di Simone Martini, del Beccafumi, del Sodoma, del Pinturicchio, di Piero della Giovanna. Ma non è della Francesca? Sì, c'è ragione, Piero della Francesca. Insomma, di tutta questa gente qua, no? Niente, un bel giorno, no? Mentre mi trovavo a passare sul Ponte Vecchio a Firenze, cioè sentivo proprio che quegli abiti che portavo addosso, cioè un po' da fichetto, no? Da figlio di papà, no? Cioè erano quasi diventati un peso, no? Per me. Tant'è vero che decisi proprio a livello conscio proprio di disfarmene completamente, no? Tant'è vero che feci un enorme pallottolone e lo buttai proprio giù nell'Arno, no? Scarpe, camicie, calzoni, tutto da sotto a buttare. Tutto nudo sul ponte stavi? Beh. Niente, dopo un po' praticamente che ero rimasto nudo, niente, uscii praticamente da Firenze, no? E cominciai a camminare per le campagne circostanti, no? Cioè, mentre camminavo, un sacco di fiori che si aprivano al mio passaggio e un sacco di profumo che si espandeva per tutta la campagna, era veramente qualcosa di inebriante, no? E poi un'altra cosa favolosa era proprio che gli uccelli, e veramente un sacco di uccelli, no? Proprio che scendevano proprio dagli alberi, no? Cioè, quasi per parlarmi. Che parlate? Che ero pappagalli? Ma in Toscana che stanno pure i pappagalli. Scusa Maria, ma non interrompiamolo, per favore, non interrompiamo. Cioè, improvvisamente, no, in fondo ad un sentiero, no? Vidi come la figura di un uomo, no? Vestito di bianco, no? Cioè, dal cui volto veramente splendeva una luce un sacco strana, no? Cioè, ma la cosa ancora più strana era, cioè, che mentre io mi avvicinavo a lui, no? Cioè, mi sentivo prima un sacco caldo, no? Poi un sacco freddo. Cioè, quando giunsi a una distanza di circa 10-15 centimetri da lui, no? Cioè, mi venne quasi spontaneo inginocchiarmi, no? E fargli questa domanda. Cioè, maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Come l'ha chiamato? Amore, amore, amore. L'avete riconosciuto sicuramente, una splendida interpretazione di Carlo Verdone in Un sacco bello, perché erano anche gli anni, quelli del 1980, dove cioè Siddhartha entrava nelle nostre borse di tolfa. Enzo De Caro, era un po' così? Beh, ancora, in fondo, non è che siano cambiati più di tanto i tempi per certe cose. Ho fatto un po' fatica a non entrare nella tua conversazione con il tuo illustre ospite esperto in editoria da Milano per la presenza. Non ma so è in linea con noi. Ah, ecco, non solo di Eolo, ma devo confessare, c'è anche un po' Nettuno che ci ha messo la mano, vicino al mare, quindi lo ammetto. Eolo e Nettuno insieme sono una combinazione straordinaria. Perché in realtà questo nostro Siddhartha fa parte di un progetto anche un po' editoriale, nel senso che è un audiobook, che è un modo un po' diverso, che non sostituisce e non sostituirà mai il sacro libro, però da ascoltatore mi piaceva entrare in questo mondo dell'audio, delle parole, e con una nuova traduzione che abbiamo fatto dalla Surkamp che ci ha dato i diritti per la traduzione, e anch'io sono d'accordo con Wolfgang Goethe che diceva che ogni generazione deve avere la sua traduzione, quindi benché la Delphi fosse resta ovviamente inevitabile, abbiamo fatta un'altra, la traduzione di Paolo Giovetti, che io ho fatto in audio, per cui vorrei rivolgere un appello al tuo ospite e anche agli altri grandi librai di aiutare la diffusione della book, perché non credo che sia una concorrenza al libro, ma paradossalmente può essere un altro modo per arrivare al libro. E mi è piaciuto il tuo intervento sul secondo long seller, perché con questo piccola casa editrice che produce questi audiobook. Il primo è stato appunto Siddhartha, il secondo è il gabbiano Jonathan Livingston. Non ne avevo dubbi, non avevo dubbi, cioè, cioè non avevo dubbi che dentro poteva entrare, dentro la nostra borsa di Tolfo, anche il gabbiano. Allora, noi andiamo a Milano di nuovo con Michele Marchetti, sì, della sì. FNAC. Abbiamo sentito Enzo De Caro che dice: aiutiamo gli audiolibri. Esatto, sì, sono completamente d'accordo perché effettivamente è un binario parallelo, non è una concorrenza ed è uno strumento per dare più spazio appunto anche a questo tipo di classici. Stanno prendendo piede a poco e vediamo crescere comunque le vendite di questo prodotto, è sicuramente uno strumento complementare, diciamo. Allora io ringrazio Michele Marchetti della FNAC di Via Torino a Milano e ringrazio Enzo De Caro che questa sera, lo ricordiamo, sarà al cortile del Palazzo Trecentesco Duchi di Santo Stefano a Taormina con Siddhartha di Herman Hesse. Adesso andiamo a Senigallia, dove si è aperto il 14, ma fino al 23 agosto c'è il Summer Jamboree, un festival particolare. Angelo Di Liberto, buongiorno, organizzatore. Allo a tutti. Allo a tutti, ma è un revival anni 50-60, che cosa succede a Senigallia? Sì, diciamo 40-50, ecco, questa è la nostra collocazione storica, quindi dallo swing al rock and roll, passando per doo-wop, jive, rhythm and blues, eccetera, eccetera. A Senigallia succede di tutto, sembra di essere in un set cinematografico ambientato appunto in quel periodo, ci sono auto americane a destra e a sinistra, a lungomare piuttosto che in centro, musica in ogni lato della città, anche qui al mare in centro, e tantissime iniziative, ci sono lezioni di ballo gratuite al nostro Tex-Mex Cajun Diner dove si può degustare cucina Tex-Mex e Cajun degli anglo-francesi americani, gli afroamericani poi in Louisiana, questo mix di cultura, no? La cultura bianca si sposa alla cultura nera, proprio come nel rock and roll, anche nella cucina Cajun, e tantissime altre cose. Ci sarà un concerto tra pochi giorni strepitoso, un'esclusiva mondiale di 10 artisti che verranno appunto al Summer Jamboree direttamente dagli anni 50, perché sono tutti veterani dell'epoca e appunto verranno qui per un concerto strepitoso il 21, venerdì 21. Ecco, le donne sono vestite con i classici abiti molto ampi, stretti in vita, con le sottogonne? Sì, qui c'è sempre una bella divisione tra ragazze e ragazzi, comunque anni 40 e 50, c'è un po' la lotta a chi si veste meglio. Quelli che tu hai descritto sono più abiti anni 50, poi ci sono anche le ragazze in rigoroso abito anni 40 e se la giocano, insomma, si giocano gli sguardi che in questa città, insomma, sono in questi giorni sono all'ordine del giorno. Quindi si va dai capelli un po' con la riga da una parte, cotonati, anni 40, lunghi, alle code di cavallo alte degli anni 50. Esatto, esatto, perfetto. E l'atmosfera anche per i ragazzi, magari sono quelli un po' con la riga da una parte, piuttosto che quelli con il ciuffo. Ecco, poi la differenza la fa anche la macchina sulla quale stanno viaggiando, se è una macchina anni 40 piuttosto che anni 50. Qui ospitiamo un parcheggio dedicato appunto alle old timers, ospitiamo tutte auto rigorosamente pre-1965, perché comunque la cultura, il design di quelle auto è rimasto anche per i primi anni 60. E tantissime altre cose, ci sono degli stand fantastici dove chi non ha abiti a tema può sbizzarrirsi, cioè c'è sia del vintage che delle riproduzioni, veramente per tutti i gusti. Riguardo alla musica, che cosa fate? Si va dalle Andrews Sisters a rock and roll di Billie Holiday? Hai azzeccato, allora tra l'altro sabato prossimo, il secondo sabato del festival, ci sarà appunto una big band di 22 elementi e un trio canterà proprio anche alcuni pezzi delle Andrew Sisters che tu hai citato, ci saranno crooner, sarà un vero spettacolo. E sì, cioè, ci sono degli urlatori del rock and roll, per esempio quest'anno c'è anche una band che dedica il proprio tributo a Django Reinhardt, quindi siamo anche più sui 30, insomma musicalmente ce n'è per tutti i gusti, c'è il doo-wop, ci sono band che sono esibiti i primi giorni del festival di doo-wop, c'è tantissimo West Swing, che gli americani hanno questioni sempre molto molto volentieri, e poi c'è anche il revival italiano, perché proprio domani 18 qui sulla spiaggia di Velluto, in occasione della prima giornata, durerà due giorni, di festa hawaiana, ci sarà niente poco di meno che Clem Sacco, un precursore degli Schiantos, di Elio le Storietese, di tutti quelli che fanno musica demenziale. Lui negli anni 50 già proponeva cose assurde tipo baciami la vena varicosa o mamma voglio l'uovo alla cocche. Ecco, negli anni 50 in Italia che ricordiamo? Carosone e magari Fred Buscaglione. Sicuramente. E anche Carosone che faceva questo misto di swing e canzone napoletana, no? Il grandissimo Quartetto Cetra, che poi è andato avanti anche negli anni a seguire, ma tantissimi altri, Natalino Otto tra i primi. Ecco, una cosa che mi veniva da chiederti, ma come a un certo punto si fa a cercare gli abiti, a venire lì, tutti vestiti, tutti truccati, con questo caldo? Sono tutti impeccabili? Allora, diciamo che questo non è uno sforzo, perché il festival veramente è diventato popolare, perché l'anno scorso in 8 giorni abbiamo contato più di 150.000 persone, però diciamo che nasce come il punto di ritrovo per tutti gli appassionati di questo genere sparsi nel mondo, e quindi è una cosa molto naturale vederli vestiti in un modo piuttosto che l'altro, perché gente che come me, mi ci metto anch'io volentieri, vive questo stile di vita e quindi anche di per quello che riguarda la moda tutto l'anno. E quindi è una cosa naturale cercare in ogni mercatino, in ogni negozio, anche adesso grazie all'aiuto di eBay è anche un po' più facile. E sì, direi che sono loro, insomma, noi tiriamo fuori le cose migliori proprio per il festival, magari quel giubbotto, un dead stock mai utilizzato, proprio del 1953, per dire, e le ragazze stessa cosa. Poi è bello anche vedere che comunque la gente, tra virgolette, comune si avvicina e ama proprio vestirsi, agghindarsi come all'epoca, come se fosse, come dicevo prima, in un set cinematografico. E qui sono di grosso aiuto gli stand che sono presenti. Quest'anno sono una cinquantina, hanno veramente di tutto, chicche, delle belle cose. Allora ricordiamo Summer Jamboree a Senigallia fino al 23 agosto. Angelo, noi ci risentiremo per questa magnifica serata, probabilmente di venerdì, e un augurio ad essere sempre più eleganti con questi vestiti tra gli anni 30 e gli anni 50. Grazie, ricordo il sito per chi volesse ottenere informazioni, è www.summerjamboree.com. Buona giornata. Grazie a voi. E adesso parliamo di scienza, sì, perché si parla tanto di Galileo, si riscopre Galileo, ma chi era effettivamente Galileo? E Francesco Nicolini e Marco Paolini sono proprio andati ad indagare su questo personaggio in uno spettacolo che è andato in scena durante questa settimana, ma che riandrà in scena anche in autunno. It is Galileo. La nostra Michela Daghini ha intervistato Francesco Niccolini. Con Niccolini il suo nome è legato da anni a quello di Paolini, di Marco Paolini, un sodalizio ormai collaudato, consolidato, proficuo e molto fortunato, che ora vi vede già al lavoro su un nuovo progetto. Voi avete firmato spettacoli molto molto importanti assieme, uno per tutti, il Vaillant, che è quell'evento, possiamo dire, rimasto nella storia anche della televisione, perché è riuscito a catalizzare 6 milioni di spettatori. Non mi ricordo di preciso, perché a me sono passati molti anni, ma tantissimi. Furono numeri che erano assolutamente inimmaginabili per il teatro in televisione. Poi con un monologo, lui da solo. Con quasi 3 ore di monologo, sì. Sì, sì, noi lavoriamo insieme dal 96. Il Vaillant è stata una delle primissime cose. Noi abbiamo cominciato a lavorare insieme su 2 spettacoli, la versione televisiva del Vaillant e sul Milione, che è questo spettacolo stranissimo sulla storia di Venezia. Beh sì, il Vaillant, è inutile dire, ci ha cambiato la vita, soprattutto Paolini. Ma è stato anche un caso, nel senso di destino, nel senso che noi quando abbiamo fatto quella cosa non immaginavamo assolutamente quello che sarebbe successo. Noi siamo saliti su quella montagna, devo dire, anche con una certa incoscienza e assoluta mancanza di consapevolezza di tantissime cose. Io mi ricordo come fosse ora il momento in cui ho capito che stavamo per andare in diretta, quando mancavano 3 spot pubblicitari alla diretta, e l'attimo di panico che ho avuto, perché ero in cabina di regia, dovevo occuparmi della messa in onda di tutti i contributi filmati della cosa. Devo dire che è davvero un panico in attesa. Non avevamo precedenti rispetto a questa cosa, per cui abbiamo vissuto tutto con innocenza, direi. E poi dopo, vabbè, sì, sono successe tante cose belle. In questi anni abbiamo fatto molti lavori insieme, in teatro, per la televisione, abbiamo lavorato con Report, con Milena Gabanelli, abbiamo fatto delle cose importanti per noi, proprio importanti. E ora ormai è più di un anno che stiamo lavorando a una nuova cosa, un nuovo spettacolo abbastanza diverso dalle cose che abbiamo sempre fatto, perché per la prima volta affrontiamo un passato molto lontano. Si tratta di provare a ricostruire la storia di Galileo Galilei, ma direi di più, la storia del pensiero che dopo 2000 anni di quasi totale immobilità rispetto alla concezione dell'universo, in 100 anni riesce a portare a termine una rivoluzione astronomica, filosofica, intellettuale, scientifica, che non ha pari nella storia dell'umanità. Ma quale angolatura avete scelto per questo lavoro? Ma ancora in realtà non lo sappiamo. Abbiamo una stranissima modalità di lavoro, io e Marco, quando lavoriamo insieme. Passiamo anni a studiare e poi improvvisamente lui decide di buttarsi di fronte a degli spettatori cavie e cominciare a fare proprio degli esperimenti puri, per cui provando proprio delle prospettive, delle angolature diverse. Non sappiamo, faremo questi esperimenti, questi piccolissimi esperimenti, piccoli nel senso per pochi spettatori, ovviamente, trattandosi proprio di spettatori cavi, non è che possiamo andare a farlo di fronte a chissà quanta gente. Piccoli esperimenti, tanti tipi diversi di racconto, e piano piano Marco troverà quello che gli sembra la strada giusta. Cercheremo di sistemarlo progressivamente nel tempo e spero che entro la fine dell'anno, al massimo entro il 2010, inizio del 2010, avremo finalmente lo spettacolo pronto. Ecco, ma dal punto di vista di partenza lo avrete individuato, l'aspetto scientifico, le controversie con la Chiesa? Ma noi abbiamo studiato di tutto, perché la nostra abitudine è cercare di capire il più possibile. Beh, indubbiamente lo scontro frontale con la Chiesa è un aspetto molto interessante, molto, molto importante. Però diciamo, ecco, forse la cosa che più ci appassiona, almeno che più appassiona me in questo momento, è quanto è ricco e contraddittorio tutto quello che accade tra Galileo, la Chiesa, tra Galileo, il potere, e come è tutto molto più complesso di quello che sembra e quello che viene tramandato, e rispetto anche alle formule più facili che usiamo. Noi ci siamo abituati a tagliare con l'ascia il bene dal male, il bianco dal nero. In realtà le cose sono davvero molto più complesse, e la cosa che io trovo davvero molto affascinante è che non a caso dopo 400 anni possiamo continuare a dibattere questi argomenti e a non trovarci d'accordo, proprio perché sono estremamente complessi. Io in questo anno ho fatto anche 2 grossi seminari con dei giovani attori per preparare questo lavoro, Ed è assolutamente straordinario vedere come anche dei ventenni, dei trentenni, buttano su un argomento del genere una immensità di energie, proprio perché da una parte attinge a una materia che abbiamo nel cuore e nella testa e che al tempo stesso non riusciamo a dominare per quanto è complessa e contraddittoria. E questo in termini teatrali diventa meravigliosamente affascinante. Ecco Nicolini, vorrei tornare al momento drammaturgico della scrittura proprio dei testi che vi vede collaborare fianco a fianco con Marco Paolini appunto. Come lavorate alla scrittura? A parte questo aspetto degli esperimenti appunto che vengono poi testati e terrete il meglio, quello a cui il pubblico reagisce in modo più forte. Ma è strano, nel senso che con Marco io studio e scrivo tantissimo, però in realtà non c'è mai un testo di partenza. Faccio l'esempio più chiaro, più anche sorprendente. Il Vaillant non è un testo scritto. Il testo che poi è stato pubblicato da Garzanti nel 98 è il frutto della sbobinatura, evidentemente poi ricorretta, perché non era mai stato scritto quel testo. Marco aveva cominciato proprio a farlo come racconto orale e per anni lo ha fatto come racconto orale senza che venisse fissato nella forma scritta. Negli spettacoli seguenti c'è stata un'alternanza di modalità, ma l'unico spettacolo davvero scritto è stato Il Milione. Lì ecco, ci siamo chiusi in una casa a Mestre, prima a Venezia poi, e per 40 giorni abbiamo scritto. E poi ci siamo messi in scena per provare. Quello era, nell'idea era una ballata, perché aveva un testo poetico molto preciso. Però in realtà la modalità che Marco ha scelto da lì in poi è stata quella di non scrivere, o di magari di scrivere frammenti e poi provare in scena, provare fino a trovare una forma dentro di sé che poteva restituire al pubblico. Di replica in replica, di serata in serata, le repliche, le forme si assomigliano di più e alla fine diventa più o meno, ma davvero più o meno, sempre lo stesso testo, che però non è scritto. È davvero sorprendente, ma io una delle cose che ammiro di più in Marco è una capacità di sintesi altissima e rapidissima nel tempo, come devo dire non ho mai trovato in nessun altro attore e intellettuale. Quindi il prossimo appuntamento sarà questo progetto su Galileo che vedremo approssimativamente in scena quando? Spero entro l'anno. I nomi delle stelle sono tutti quanti belli, Sirio, Vega, Andromeda, l'orsa e i due gemelli. E adesso ci spostiamo ad Udine, più precisamente alla corte Palazzo Morpugo, dove questa sera ci saranno delle letture. Angela Felice legge insieme a Paolo Pattui Collage, uomini e donne, incroci di carta tra punti di vista. Angela, buongiorno, che Eccomi vuol dire? Qua, buongiorno. Che vuol dire? Che cosa sono questi incroci? Tante cose, sono incroci in questo caso di punti di vista su come gli uomini, nella letteratura naturalmente, vedono noi donne, in questo caso parliamo in rosa quindi, e come noi donne vediamo gli uomini sempre nella letteratura. È un gioco in questo caso, no? Un gioco di, diciamo, non di guerra dei sessi per l'amor di Dio, ma di incontri scontri fra sensibilità, così come sono filtrate dai libri, dalle parole degli scrittori. E questo appuntamento è uno dei sei cicli che quest'anno, grazie al Comune di Udine e al Teatro Club, all'assessorato alla cultura poi del Comune di Udine, fanno parte di un progetto che Paolo Pattui ed io portiamo avanti da 3 anni a Udine e che si svolge in questo luogo bellissimo, peccato che non lo vediate, è la corte proprio dell'assessorato, una corte antica con un bel muro coi sassi, noi ci siamo lì appostati, di sera si svolge il tutto e niente, ci sono queste serate che ormai hanno un seguito, come si dice oggi, fidelizzato, no? di estimatori che ci ascoltano con passione, insomma con interesse, anche se il nostro scopo non è didascalico, non ho assolutamente né accademico. Io ho saputo che voi avete fatto una lettura molto intensa, mi raccontavi, su sì. Il Fu Mattia Pascal, avete estratto dei brani, avete fatto una sorta di romanzo a puntate. Sì, guarda, beh, la nostra formula, l'originalità della nostra formula, appunto collaudata da 3 anni, è proprio questa, nel senso di leggere a puntate in una serie di appuntamenti con delle selezioni ovviamente anche un po' brutali su certi grandi capolavori, no, della letteratura italiana o no, leggere a puntate dei romanzi, per cui quest'anno in luglio abbiamo letto in 3 puntate Un'impresa impossibile, comunque ha funzionato il Fumatia Pascal, così come gli anni scorsi, addirittura in 4 puntate Madame Bovary, oppure Sostiene Pereira di Tabucchi, d'inverno, anche perché abbiamo anche delle, insomma, se ci reggono le forze, abbiamo anche così questa alternativa, questa seconda puntata invernale, che avevo letto in 8 puntate Il Gatto Pardo, per dire. Però, e stasera invece avete una chicca su Mark Twain, il grande scrittore, certo, di Huckleberry Finn. Non potrei svelare la partitura, perché francamente io non conosco, ma dai, un pezzettino, cosa leggerà Paolo. Ecco, va bene. La formula comunque, sai in cosa consiste? Che c'è una suggestione anche visiva, cinematografica, interventi di musica dal vivo e poi un ospite ogni volta, sorpresa, no? Recentemente abbiamo avuto Bruno Pizzu che ci ha letto qualcosa da Brera, no? Da Gianni Brera, per dire, oltre al sindaco della città. Ma la formula è interessante perché noi non siamo attori e quindi forse diamo ai testi questo taglio di freschezza, no? Di lettori normali che amano i libri e vogliono comunicare questa passione. Comunque, stasera Mark Twain, il diario di Adamo ed Eva. Qua andiamo a nozze. Allora io leggerò quasi sicuramente un pezzo tratto da appunto il diario di Adamo ed Eva dopo la caduta. E il pezzo è questo. Lo leggo così come viene. Assolutamente sì. Allora. Il giardino è perduto, ma ho trovato lui e sono contenta. Quando mi chiedo perché lo amo, sento che non lo so e che non mi importa neanche poi molto di saperlo. Io amo certi uccelli per il loro canto, mentre il mio amore per Adamo non nasce dal suo modo di cantare. No, non è quello, anzi, più lui canta, più io non mi capacito. Eppure gli chiedo di cantare, ma mi fa venire il latte alle ginocchia, ma non è importanza, mi ci posso abituare. Non è dal suo acume che nasce il mio amore per lui, no, non è quello, non è colpa sua se il suo acume è quello che è. L'intento però era buono, ne sono sicura, col tempo si svilupperà, benché non di colpo, a mio parere. Non è dai suoi modi gentili che nasce il mio amore per lui, no, in questo ha ancora delle lacune, però va già abbastanza bene così com'è e sta migliorando. Non è dalla sua istruzione che nasce il mio amore per lui, non è quello, lui è autodidatta e sa veramente una grande quantità di cose che però sono sbagliate. Non è dalla sua cavalleria che nasce il mio amore per lui, no, non è quello, anzi, mi ha fatto la spia, ma non lo biasimo, è una caratteristica del suo sesso, a mio parere. Naturalmente io non gli avrei mai fatto la spia, piuttosto sarei morta. E allora, come mai dunque lo amo? Come mai? Semplicemente perché è maschio, penso. Fantastico Mark Twain, riesce ad essere attuale anche oggi. Delizioso, è delizioso, ironico al punto giusto. Ti ricordi le avventure di Huckleberry Finn? Che cosa ne combinavano sulle sponde del Mississippi? Succedeva di tutto, ma con uno sguardo anche molto fantasioso, ironico e incantato. Allora ricordiamo, Angela, grazie per questa chicca di questa sera. Lunedì 17 agosto, questa sera, ore 21, alla Corte Palazzo Morpugo ad Udine, lettura in corte con Angela Felice e Paolo Pattui. Appuntamento allora ad Udine. Bene, ora te noi. Quarto tempo della prima misura, do. Confutatis. Seconda misura, quarto tempo, re. Maledictis. D'accordo? Sì, sì, sì, continui. Secondo quarto della quarta misura, fa. Flammi sacribus addictis, flammi sacribus addictis. Adesso all'orchestra, secondo fagotto e il trombone basso con i bassi. Identiche note, stesso ritmo. E abbiamo saccheggiato, abbiamo voluto sentire Amadeus, il film fantastico di Milos Forman, per introdurre Mozart, la sua vita privata e quello che succede, quello che è successo nella sua brevissima vita e quello che viene tratto dal suo epistolario, perché questa sera alla Versiliana un Mozart particolare, Riccardo Scamarcio, porta in scena l'intelligenza, il cuore, le dita e la regia è di Cosimo Damiano D'Amato, la produzione di Angelo Tuminelli. Allora io partirei subito con Tuminelli per dire: ma com'è stato difficile portare uno Scamarcio a fare Mozart alla Versiliana? Che difficoltà? Diciamo le difficoltà sono quelle che appunto Scamarcio in questo momento, essendo uno degli attori giovani più in voga, i suoi impegni di carattere cinematografico sono molteplici. Prossimamente uscirà con il film di Placido che è appunto in concorso quest'anno a Venezia, subito dopo inizia il film di Ferzan Özbetek, sta girando in questo momento il film insieme a Rubini. Insomma, non è stato facile incastrare e trovare appunto un momento libero nell'arco appunto dell'estate, però diciamo al di là della difficoltà c'è stato invece un grande entusiasmo che ha in qualche modo da parte di Riccardo compensato questi momenti difficili per incastrare e trovare dei tempi liberi. C'è stato un grande entusiasmo perché appunto Mozart è un personaggio che lui ha sempre amato molto, non conosceva questo lato più recondito di questo genio, e quindi quando gliel'ho proposto francamente ha esternato un grande entusiasmo. Quindi prima nazionale questa sera, vi aspettate molte fan, molte teenager? Ci auguriamo di sì, ce l'aspettiamo perché Riccardo appunto soprattutto attecchisce molto sui giovani. Sulle giovani. Sì, sui giovani e sulle giovani, certo, particolarmente sulle giovani, hai ragione. Cosimo Damiano D'Amato, il regista, tu porti in scena un testo di chi? Tratto dall'epistolario privato di Mozart, giusto? Sì, è un adattamento di Brandt molto lungo, tutto l'epistolario, anche quello più segreto, quello meno conosciuto di Mozart. E prima voi parlavate di giovani, il nostro invito sarebbe proprio quello rivolto ai giovani di venire a vedere questo spettacolo, perché se noi pensiamo, quando pensiamo a Mozart, pensiamo alla musica, ma dobbiamo pensare anche che questo è stato un grande contestatore, un grande personaggio. Infatti ne racconteremo la sua inquietudine, quindi potremmo dire quasi un Vasco Rossi di qualche secolo fa, e sarebbe interessante che i giovani si avvicinassero a questo personaggio, oltre ad avvicinarsi alla sua musica geniale, avvicinarsi anche al suo vissuto, come è diventato poi quel genio che conosciamo noi, e lo facciamo grazie al movimento della voce con questo reading, con l'apporto insomma importante di Riccardo Scamarcio. Quindi sono una serie di letture, di lettere che lui ha scritto? Come si articola lo spettacolo? È una trama narrativa abbastanza d'impatto, perché abbiamo, insieme a Tuminelli, abbiamo fatto questa ricerca e sono venute fuori diverse lettere interessanti, sono degli stralci di queste lettere, a volte il dialogo con il padre, a volte con la madre, a volte con sua cugina, sua sorella, quindi tutte queste anche donne, figure femminili che sono state fondamentali nella sua proprio formazione anche artistica, non solo umana. E quindi attraverso questo dialogo, potremmo dire segreto, viene fuori il suo personaggio, anche come sono nate poi alla fine le sue opere. E spina dorsale anche di questo spettacolo sarà la musica. Abbiamo un quartetto d'archi abbastanza imponente e ci sarà questa cavalcata anche lungo le sue composizioni più accattivanti, più intense. Quindi non solo parole, ma anche musica, non solo musica, ma anche parole. Anche perché, lo ricordiamo, Mozart deve essere per forza fatto da un attore giovane, in quanto morì molto giovane. Morì. Sì, lui è morto più che trentenne. La scelta di Scamarcio non è stata neanche a caso, perché c'è una grande assonanza fra i due personaggi, questo temperamento deciso, forte, questa profondità. Quindi 30, Mozart muore a 35 anni, ma Riccardo Scamarcio quanti anni ha? Beh, Scamarcio credo che abbia poco più che 30 anni, ma al di là dell'età è la sua forza, dobbiamo dire, tra l'altro per l'Italia anche un certo prestigio avere questo attore. Lui di recente si è misurato con un grande regista come Costa Gavras, quindi è uno di quegli attori di peso che sicuramente continuerà a portare l'Italia, insomma, attraverso i suoi film in giro per il mondo. Grazie anche a questa operazione teatrale, insomma, possiamo dire che inizia anche questo percorso teatrale per Scamarcio, che tra l'altro lui ha iniziato col teatro, quindi è quasi un ritorno al teatro. E allora vediamo se con questo reading sarà veramente all'altezza, perché poi al cinema è una cosa, essere bravi perché c'è un'espressività, eccetera. A teatro è ancora più difficile, soprattutto poi in un reading dove non c'è nemmeno, cioè c'è solo la forza della parola, no? E magari non si sa la parte a memoria. Ricordiamo però questa serata speciale alla Versiliana, l'intelligenza, il cuore, le dita, sinfonie di un genio, un reading di Riccardo Scamarcio, prima nazionale a Marina di Pietrasanta in provincia di Lucca, questa sera alle 21:30. È solo un addio, credimi o non ci penso mai, vedo che hai pianto. Ma da quando bella d'estate va via da me. E adesso ci spostiamo a Velia nel Cilento, dove sotto la rocca alle ore 21 va in scena l'Eros, il simposio. Insomma, un testo molto impegnativo. Chiediamo a Bob Marchesi perché hai scelto questo testo di Platone su Socrate. Beh. Niente, è una serie di atti unici praticamente sono, perché i dialoghi sono quasi portati per essere recitati, insomma, vista la forma dialogica con la quale si presentano. E noi siamo qui da parecchi giorni, abbiamo debuttato il 12 sera con il Parmenide, la sera dopo siamo andati in scena con il Gorgia, la terza sera con lo Ione. E ora questa sera va in scena il simposio. Bob, tu sei un regista, perché hai scelto questi testi e perché magari non hai scelto... Soprattutto perché sono splendidi, soprattutto perché sono di tipo teatrale, quindi di alta cultura, alto teatro, e ci piaceva farlo. Ma è un vecchio progetto questo che avevamo già messo in opera al gruppo della Rocca, compagnia della quale io ho fatto parte per circa 30 anni, quindi... E l'avevamo già messo in scena allora, li abbiamo riproposti a Teatro Stabile 3 anni fa e da allora siamo stati richiesti più volte. Questa è un'occasione come un'altra per inserirci in un contesto dove si parla e discute di filosofia. C'è un convegno al quale intervengono filosofi da tutte le parti del mondo, facciamo diventare la filosofia teatro e il teatro filosofia. Nell'antica Grecia questo era molto comune. Sì, senti Bob, certo. Quante persone sono in scena stasera per il simposio? Sei attori. Quindi insomma ci sono varie letture, ogni attore legge un pezzo, come è articolato? No, è uno spettacolo vero e proprio, recitato a memoria. Non è letto? No, assolutamente no, è uno spettacolo vero e proprio, interpretato. Ma subito dopo, ed è una cosa importante, c'è il dibattito. Ah, c'è anche il dibattito, quindi alla fine... No, è un dibattito che stenta a cessare, perché comincia alle 10:30 quando finisce lo spettacolo e tutte le sere si va oltre la mezzanotte ed è il pubblico che interviene, non tanto sullo spettacolo, intendiamoci, alcuni naturalmente qualche apprezzamento lo fa, ma quanto sui temi che noi proponiamo. Non consentire che l'indagine vaghi sulle cose visibili e si limiti ad esse, anzi... fare in modo che debba vertere su quegli oggetti che si possono cogliere col ragionamento. Parmenide! Giusto te! Tu parli di un esercizio eccezionale che io non comprendo. Vuoi mostrarmelo tu stesso? Una fatica improba tu imponi, o Socrate, ad un uomo della mia età. Parmenide dice il vero, non è impresa da poco. Però anche io vorrei riascoltarti dopo tanto tempo. sono costretto a cedere alle vostre insistenze. Eppure mi pare di trovarmi nella condizione del cavallo di Ibico, il quale, esperto di corse ma ormai vecchio, sul punto di gareggiare e già giocato al carro, era trepidante per ciò che lo attendeva e suo malgrado, perché vecchio, era costretto ad andare incontro a ciò che più amava. E che cos'era? Il correre. Allora ricordiamo il simposio L'Eros di Platone con in scena Socrate questa sera alle ore 21 sotto la rocca a Velia nel Cilento con il professor Giuseppe Cambiano, la salutiamo professore, grazie per le spiegazioni, e Bob Marchesi. E anche per oggi è tutto, io ringrazio Valerio Rocchetti in regia, Gloria Guerrera in redazione, vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it. Una buona giornata e buone vacanze a tutti.